mancanza, la mancanza adesione degli Stati Uniti al Trattato di Ottawa, come al Trattato di Kyoto o al Tribunale Penale Internazionale, ecco, quanto pesa questo dato sul generale successo del trattato? Beh, la mancanza adesione degli Stati Uniti al Trattato di Ottawa, che non è altro che una delle numerose manifestazioni di distrezzo che gli Stati Uniti hanno per il multilateralismo e appunto la politica multilaterale, è sicuramente un fattore di peso nell'ottenere la universalizzazione, l'universale adesione di tutti gli Stati al trattato. Molti Stati dicono: finché non aderiranno gli Stati Uniti, non aderiamo neanche noi. Questo è il caso degli altri due membri permanenti del Consiglio di Sicurezza che mancano all'appello, cioè Cina e Russia. È il caso di Stati come l'India, che dice: finché non avranno aderito tutti gli altri, non aderiremo. Quindi sicuramente questa mancata adesione degli Stati Uniti funge da freno. Però è diciamo un freno che va contro tendenza, cioè una tendenza invece molto forte da parte di numerosissimi altri stati. Ormai siamo a quota quasi 150, sono 152 che hanno firmato e 144 con l'Etiopia che ha appena ratificato, quelli che sono membri a pieno titolo. Quindi c'è una tendenza a livello mondiale ad abbandonare l'uso di mine, e per quanto sia diciamo pesante e ingombrante l'assenza degli Stati Uniti, comunque non può fungere da contraltare a questa tendenza internazionale. Sentimento, il consigliere Cucuri ha parlato di una diminuzione dei finanziamenti, giustificandola un po' con la congiuntura economica. Secondo te invece esiste un po' una distrazione a livello politico sul tema? C'è effettivamente un rischio di calo di attenzione, calo di tensione morale sul discorso delle mine, sul problema che le mine presentano. In molti casi si tende a pensare che nel momento in cui l'Italia ha smesso di produrre mine, ha aderito al Trattato di Ottawa, ha fatto una legge nazionale che è una delle più avanzate in materia di mine, perché ha una definizione di mina molto, molto ampia e quindi molto protettiva nei confronti delle popolazioni che poi rischierebbero di saltare su una mina, e il problema sia stato risolto lì. Non si vede che il problema continua ad esistere in 83 paesi in tutto il mondo, non si vede anche la responsabilità morale, se non giuridica, dell'Italia di continuare a sostenere gli sforzi per togliere dal terreno le mine che sono state messe, per assistere le popolazioni che sono state colpite, per insegnare ai bambini e alle popolazioni locali a non a tenere comportamenti rischiosi che potrebbero portarle a un incidente da mina. Quindi sì, c'è stato un calo di tensione, e per questo che la campagna italiana diciamo rinnova le sue attività anche in sede di Parlamento, proprio nel momento della discussione della finanziaria, perché si ritorni a portare la giusta attenzione e il giusto impegno anche di natura finanziaria su questo tema. Quindi detto questo, cresce ancora una volta il ruolo che devono avere la società civile e le ONG. Assolutamente, il ruolo delle ONG e della società civile è fondamentale, ed è per questo appunto che noi stiamo facendo una campagna a livello di altre organizzazioni, associazioni, di individui singoli che possono fare anche una petizione sul nostro sito www.campagnamine.org, e di enti locali. Molti enti locali stanno aderendo alla nostra richiesta nei confronti del Parlamento di adeguare i fondi per lo sminamento umanitario. Quindi stiamo promuovendo una mobilitazione che probabilmente non raggiungerà gli stessi livelli di 10 anni fa, quando l'Italia appunto come paese produttore di mine si trovava in prima linea e al centro diciamo dell'occhio del ciclone, però cerchiamo di riprodurre una mobilitazione di massa, perché le popolazioni che sono colpite dalle mine chiedono di non abbassare la guardia.